Sura settima. Al-Araf. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Alif Lam Mim Sad. È un libro che è stato fatto scendere su di te. Non sia a causa sua alcuna oppressione sul tuo petto, che con esso tu ammonisca e sia un monito per i credenti. Seguite quello che vi è stato rivelato dal vostro Signore e non abbiate altri patroni che Lui. Quanto poco ve ne ricordate. Quante città abbiamo distrutte, le colpì la nostra severità, di notte o durante il riposo notturno o pomeridiano. Quando li colpì la nostra severità, non poterono implorare, ma solo dire, sì, siamo stati ingiusti. Certamente interrogheremo coloro a cui inviammo, e certamente interrogheremo gli inviati. Poi riferiremo loro le loro azioni con perfetta conoscenza, poiché mai siamo stati assenti. In quel giorno la pesatura sarà conforme al vero, e coloro le cui bilance saranno pesanti prospereranno. Mentre coloro le cui bilance saranno leggere sono coloro che perderanno le anime, poiché hanno prevaricato sui nostri segni. In verità, vi abbiamo posti sulla terra e vi abbiamo provvisti in essa di sostentamento. Quanto poco siete riconoscenti! In verità, vi abbiamo creati e plasmati, quindi dicemmo agli angeli, prosternatevi davanti ad Adamo. Si prosternarono ad eccezione di Iblis, che non fu tra i prosternati. Disse Allah, cosa mai ti impedisce di prosternarti nonostante il mio ordine? Rispose, sono migliore di lui. Mi hai creato dal fuoco, mentre creasti lui dalla creta. Vattene, disse Allah, qui non puoi essere orgoglioso. Via, sarai tra gli abietti. Concedimi una dilazione, disse, fino al giorno in cui saranno risuscitati. Sia, disse Allah, ti è concessa la dilazione. Disse, dal momento che mi hai sviato, tenderò loro agguati sulla tua retta via, e li insidierò da davanti e da dietro, da destra e da sinistra, e la maggior parte di loro non ti saranno riconoscenti. Vattene, disse Allah, cacciato e coperto di abominio. Riempirò l'inferno di tutti voi, tu e coloro che ti avranno seguito. E disse, o Adamo, abita il paradiso insieme con la tua sposa. Mangiate a vostro piacere, ma non avvicinatevi a questo albero, che allora sareste tra gli ingiusti. Satana li tentò per rendere palese la nudità che era loro nascosta. Disse, il vostro Signore vi ha proibito questo albero affinché non diventiate angeli o esseri immortali. E giurò, in verità sono per voi un consigliere sincero. Con l'inganno li fece cadere entrambi. Quando ebbero mangiato dei frutti dell'albero, si accorsero della loro nudità e cercarono di coprirsi con le foglie del giardino. Li richiamò il loro Signore. Non vi avevo vietato quell'albero? Non vi avevo detto che Satana è il vostro dichiarato nemico? Dissero, o Signor nostro, abbiamo mancato contro noi stessi. Se non ci perdoni e non hai misericordia di noi, saremo certamente tra i perdenti. Andatevene via, disse Allah, nemici gli uni degli altri. Avrete sulla terra dimora e godimento prestabilito. Di essa vivrete, disse Allah, e su di essa morrete e da essa sarete tratti. O figli di Adamo, facemmo scendere su di voi un abito che nascondesse la vostra vergogna e per ornarvi. ma l'abito del timor di Allah è il migliore. Questo è uno dei segni di Allah, affinché se ne ricordino. O figli di Adamo, non lasciatevi tentare da Satana, come quando fece uscire dal paradiso i vostri genitori, strappando loro i vestiti per palesare la loro vergogna. Esso e i suoi alleati vi vedono da dove voi non li vedete. A coloro che non credono, abbiamo assegnato i diavoli per alleati. Quando commettono qualcosa di turpe dicono: così facevano i nostri avi, è Allah che ce l'ha ordinato. Di: Allah non comanda la turpitudine. Direte contro Allah ciò che non conoscete? Di: il mio Signore ha ordinato l'equità, di sollevare la testa in ogni luogo di preghiera, di invocarlo e di attribuirgli un culto puro. Ritornerete a Lui così come vi ha creati. Guida gli uni, mentre altri meritano la perdizione per aver preso i diavoli a patroni al posto di Allah, e credono di essere loro i ben guidati. O figli di Adamo, abbigliatevi prima di ogni orazione. Mangiate e bevete, ma senza eccessi, che Allah non ama chi eccede. Di: chi ha proibito gli ornamenti che Allah ha prodotto per i suoi servi e i cibi eccellenti? Di: appartengono ai credenti in questa vita terrena e soltanto ad essi nel giorno della risurrezione. Così spieghiamo i nostri segni ad un popolo che sa. Di: il mio Signore ha vietato solo le turpitudini palesi o nascoste, il peccato e la ribellione ingiusta, l'attribuire ad Allah consimili, a proposito dei quali egli non ha concesso autorità alcuna, e il dire contro Allah cose di cui non conoscete nulla. Ogni comunità ha un termine stabilito, e quando il suo tempo giunge non ci sarà ritardo né anticipo di un'ora. O figli di Adamo, quando vi giungono messaggeri dalla gente vostra che vi riferiscono i miei segni, chi allora sarà timorato e si correggerà non avrà nulla da temere e non sarà afflitto. Coloro che invece smentiscono i nostri segni e se ne allontanano per orgoglio sono i compagni del fuoco, dove rimarranno in perpetuo. Chi è peggiore ingiusto di colui che inventa menzogne contro Allah e considera bugia i suoi segni? Avranno quanto è prestabilito. Poi verranno i nostri angeli, li faranno morire e diranno: dove sono quelli che avevate l'abitudine di invocare al posto di Allah? Diranno: ci hanno abbandonati. E testimonieranno contro loro stessi della loro miscredenza. Entrate nel fuoco, dirà Allah, assieme ai demoni e agli uomini delle comunità che vi precedettero. Ogni comunità che vi entrerà maledirà sua sorella. Quando poi vi si incontreranno tutte, l'ultima dirà della prima: o nostro Signore, ecco quelli che ci hanno traviati, dà loro un doppio castigo di fuoco. Lui dirà: il doppio per tutti quanti, ma voi non sapete. E la prima dirà all'ultima: non avete nessun merito su di noi, gustate il castigo per quello che avete commesso. In verità, le porte del cielo non si apriranno mai per coloro che smentiscono i nostri segni allontanandosene orgogliosamente. Non entreranno in paradiso sino a quando un cammello non passi per la cruna di un ago. Così noi compensiamo i peccatori. Avranno nell'inferno letti e coperte che li avvolgeranno. Così compensiamo gli ingiusti. Quanto a coloro che credono e compiono il bene, che non obbligheremo nessuno oltre le sue possibilità, essi saranno i compagni del giardino e vi rimarranno in perpetuo. Cancelleremo il rancore dei loro petti, mentre ai loro piedi scorreranno i ruscelli e diranno: la lode appartiene ad Allah, che ci ha guidati a ciò. Non saremmo stati guidati se Allah non ci avesse guidato. I messaggeri del nostro Signore sono venuti con la verità. Verrà affermato a gran voce: ecco, il giardino vi è dato in eredità per quello che avete fatto. E quelli del giardino grideranno ai compagni del fuoco: abbiamo verificato quello che il nostro Signore ci aveva promesso. E voi avete verificato quello che vi era stato promesso? Sì, diranno. Poi un nunzio proclamerà in mezzo a loro: maledizione di Allah sugli ingiusti, che ponevano ostacoli sul sentiero di Allah e cercavano di renderlo tortuoso e non credevano all'altra vita. Tra i due vi sarà un velo, e sull'Araf uomini che riconoscono tutti per i loro segni caratteristici. E grideranno ai compagni del giardino: pace su di voi, senza potervi entrare, pur desiderandolo. Quando i loro sguardi si rivolgeranno ai compagni del fuoco, diranno: o Signor nostro, non metterci con il popolo degli ingiusti. E i compagni dell'Araf chiameranno gli uomini che riconosceranno per il loro aspetto, dicendo: le ricchezze e l'orgoglio non vi hanno giovato in nulla. Sono essi coloro che giuravate non sarebbero stati raggiunti dalla misericordia di Allah? Verrà detto loro: entrate nel giardino, non avrete niente da temere e non sarete afflitti. E i compagni del fuoco grideranno ai compagni del giardino: versate acqua su di noi e parte del cibo che Allah vi ha concesso. Risponderanno: in verità Allah ha proibito l'uno e l'altro ai miscredenti che consideravano la loro religione gioco e passatempo ed erano ingannati dalla vita terrena. Ebbene, oggi noi li dimenticheremo, come loro hanno dimenticato l'incontro di questo giorno e hanno rigettato i nostri segni. Facemmo loro giungere un libro e lo abbiamo spiegato nei particolari, che fosse guida e misericordia per coloro che credono. Aspettano forse l'adempiersi dell'evento? Il giorno in cui sarà compiuto, coloro che prima lo smentivano diranno: i messaggeri del nostro Signore erano venuti con la verità. Ci sono intercessori che possono intercedere per noi o potremo ritornare per agire diversamente da come abbiamo agito? Si sono rovinati da loro stessi e quello che inventavano li ha abbandonati. Allah è il vostro Signore, colui che in 6 giorni ha creato i cieli e la terra e poi si è innalzato sul trono. Ha coperto il giorno con la notte ed essi si susseguono instancabilmente. Il sole, la luna e le stelle sono sottomesse ai suoi comandi. Non è a lui che appartengono la creazione e l'ordine? La lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi. Invocate il vostro Signore umilmente e in segreto. Egli in verità non ama i trasgressori. Non spargete la corruzione sulla terra dopo che è stata resa prospera. Invocatelo con timore e desiderio. La misericordia di Allah è vicina a quelli che fanno il bene. Egli è colui che invia i venti, annunciatori e precursori della sua misericordia. Quando poi recano una nuvola pesante, la dirigiamo verso una terra morta e ne facciamo discendere l'acqua con la quale suscitiamo ogni tipo di frutti. Così resusciteremo i morti. Forse rifletterete in proposito. Nelle buone terre crescono piante in quantità per volontà del loro Signore, in quelle cattive non spuntano che a stento. Così spieghiamo i nostri segni per il popolo che si dimostra riconoscente. In verità mandammo Noè al suo popolo, disse: o popolo mio, adorate Allah, per voi non c'è altro Dio che Lui. Temo per voi il castigo di un giorno terribile. I notabili del suo popolo dissero: ti vediamo manifestamente sviato. Disse: o popolo mio, non c'è errore in me, non sono che un messaggero del Signore dei mondi. Vi riferisco i messaggi del mio Signore, vi do sinceri consigli e ho ricevuto da Allah la conoscenza di ciò che ignorate. Vi stupite forse che vi giunga un richiamo da parte del vostro Signore tramite uno dei vostri uomini, che vi avverta e vi esorti al timor di Allah affinché possiate godere della sua misericordia? Lo tacciarono di menzogna. Salvammo lui e coloro che stavano con lui nell'arca, e annegammo coloro che smentivano i segni nostri. In verità era un popolo cieco. E agli Ad inviammo il loro fratello Hud. O popol mio, disse, adorate Allah. Per voi non c'è altro Dio che Lui. Non lo temerete? I notabili del suo popolo, che erano miscredenti, dissero, ci pare che tu sia in preda alla stoltezza e crediamo che tu sia un bugiardo. Disse, non c'è stoltezza in me, sono messaggero del Signore dei mondi. Vi riferisco i messaggi del vostro Signore e sono per voi un consigliere affidabile. Vi stupite che vi giunga un richiamo da parte del vostro Signore per il tramite di uno dei vostri uomini che vi ammonisce? Ricordatevi di quando vi designò successori del popolo di Noè e accrebbe la vostra prestanza nel mondo. Ricordate i benefici di Allah affinché possiate prosperare. Dissero, sei venuto per far sì che adoriamo Allah, l'unico, abbandonando quello che adoravano i nostri avi? Se sei sincero, mostraci quello di cui ci minacci. Disse, ecco che il vostro Signore ha fatto cadere su di voi supplizio e collera. Volete polemizzare con me sui nomi che voi e vostri avi avete inventato, senza che Allah vi abbia concesso a riguardo alcuna autorità? Aspettate, e anch'io rimarrò in attesa insieme a voi. Abbiamo salvato lui e coloro che erano con lui, per nostra misericordia, e cancellato anche le tracce di coloro che smentivano i nostri segni e non credevano. E ai Thamud inviammo il loro fratello Saleh. Disse, o popol mio, adorate Allah. Per voi non c'è altro Dio all'infuori di Lui. Ecco che vi è giunta una prova da parte del vostro Signore. Ecco la cammella di Allah, un segno per voi. Lasciatela pascolare sulla terra di Allah e non le fate alcun male, contereste un doloroso castigo. E ricordatevi di quando, dopo gli Ad, vi costituì i loro successori e vi stabilì sulla terra. Costruiste castelli nelle pianure e scavaste case nelle montagne. Ricordatevi dei benefici di Allah e non contaminate la terra comportandovi da corruttori. I notabili del suo popolo, che erano tronfi di orgoglio, dissero agli oppressi fra quelli di loro che avevano creduto, siete sicuri che Saleh sia un inviato del suo Signore? Ed essi risposero, sì, crediamo nel messaggio inviato suo tramite. Gli orgogliosi dissero, certamente neghiamo ciò in cui credete. Quindi tagliarono i garretti alla cammella, disobbedirono agli ordini del loro Signore e dissero, o Saleh, se sei uno degli inviati, fai cadere su di noi ciò di cui ci minacci. Li colse il cataclisma e al mattino giacquero bocconi nelle loro dimore. Allora Saleh si allontanò da loro e disse, o popol mio, vi avevo trasmesso il messaggio del mio Signore e vi avevo dato consigli sinceri, ma voi non amate i consiglieri sinceri. E quando Lot disse al suo popolo, vorreste commettere un'infamità che mai nessuna creatura ha mai commesso? Vi accostate con desiderio agli uomini piuttosto che alle donne. Sì, siete un popolo di trasgressori. E in tutta risposta il suo popolo disse, cacciateli dalla vostra città, sono persone che vogliono essere pure. E noi salvammo lui e la sua famiglia, eccetto sua moglie, che fu tra quelli che rimasero indietro. Facemmo piovere su di loro una pioggia. Guarda cos'è avvenuto ai perversi. Agli abitanti di Madian inviammo il loro fratello Shuaib. Disse, o popol mio, adorate Allah. Per voi non c'è altro Dio che Lui. Vi è giunta una prova da parte del vostro Signore. Riempite la misura e date il giusto peso. e non danneggiate gli uomini nei loro beni. Non corrompete la terra dopo che Allah la creò pura. Ciò è meglio per voi se siete credenti. Non appostatevi su ogni strada distogliendo dal sentiero di Allah coloro che credono in Lui e cercando di renderlo tortuoso. Ricordatevi di quando eravate pochi ed Egli vi ha moltiplicati. Guardate cosa è accaduto ai corruttori. Se una parte di voi crede nel messaggio con il quale sono stato inviato e un'altra parte non crede, siate pazienti e sopportate fino a che Allah giudichi tra noi. Egli è il migliore dei giudici. I notabili del suo popolo, che erano tronfi di orgoglio, dissero: «O Shuaib, certamente ti cacceremo dalla nostra città, tu e quelli che hanno creduto in te, a meno che non ritorniate alla nostra religione». Rispose: «Anche se la aborriamo? Inventeremmo menzogne contro Allah se ritornassimo alla vostra religione, dopo che Allah ce ne ha salvati. Non potremo farvi ritorno, a meno che non lo voglia Allah, nostro Signore. Il nostro Signore possiede la scienza di ogni cosa, in Allah riponiamo la nostra fiducia. O Signor nostro, giudica secondo verità tra noi e il nostro popolo. Tu sei il migliore dei giudici». I notabili del suo popolo, che erano miscredenti, dissero: «Se seguite Shuaib, sarete sicuramente rovinati». Li colse il cataclisma, e al mattino giacquero prostrati nelle loro dimore. Per coloro che avevano tacciato Shuaib di menzogna, fu come se non avessero mai abitato in quei luoghi. Coloro che tacciavano Shuaib di menzogna sono andati in rovina. Si allontanò da loro e disse: «O popolo mio, vi avevo trasmesso i messaggi del mio Signore e vi avevo dato consigli sinceri. Come potrei ora essere afflitto per un popolo di miscredenti? Non inviamo mai un profeta in una città senza colpire i suoi abitanti con disgrazie e carestie affinché fossero umili. Poi sostituimmo il male con il bene finché, aumentando in numero e ricchezze, dissero: agi e disagi toccarono anche i nostri avi. Allora li afferrammo all'improvviso, senza che se ne accorgessero. Se gli abitanti di queste città avessero creduto e avessero avuto timor di Allah, avremmo diffuso su di loro le benedizioni del cielo e della terra. Invece tacciarono di menzogna e li colpimmo per ciò che avevano fatto. Forse che la gente delle città è al riparo dal nostro castigo severo che li colpisce la notte durante il sonno? Forse che la gente delle città è al riparo dal nostro castigo severo che li colpisce in pieno giorno mentre si divertono? Si ritengono al riparo dallo stratagemma di Allah? Di fronte allo stratagemma di Allah si sentono al sicuro solo coloro che già si sono perduti. Non è forse palese a coloro che ricevono l'eredità della terra che se noi volessimo li colpiremmo per i loro peccati e sigilleremmo i loro cuori, sicché non udrebbero più nulla? Ecco le città di cui, con verità, ti raccontiamo la storia. Giunsero loro messaggeri con prove evidenti, ma essi non potevano credere in quello che prima avevano tacciato di menzogna. Così Allah sigilla i cuori dei miscredenti. E non trovammo nella maggior parte di loro rispetto alcuno per il patto, e anzi trovammo perversa la maggior parte di loro. Poi, dopo di loro, inviammo Mosè con i nostri segni, a Faraone e ai suoi notabili, ma essi trasgredirono. Guarda dunque ciò che è accaduto ai perversi. Disse Mosè: «O Faraone, in verità io sono un messaggero inviato dal Signore dei mondi. Non dirò su Allah altro che la verità. Son giunto con una prova da parte del vostro Signore. Lascia che i figli di Israele vengano via con me». «Se hai recato una prova con te», disse Faraone, «allora mostrala, se sei uno che dice la verità». Gettò il bastone, ed ecco e si trasformò in un serpente, ben evidente. Stese la mano ed ecco che apparve bianca agli astanti. I notabili del popolo di Faraone dissero: «Si tratta certamente di un mago sapiente che vuole scacciarvi dalla vostra terra». «Cosa dunque ordinate in proposito?» Dissero: «Fai attendere lui e suo fratello e manda nunzi nelle città che ti conducano tutti i maghi più esperti». I maghi si presentarono a Faraone e dissero: «Davvero ci sarà un premio per noi se saremo vincitori?» Disse: «Sì, e inoltre sarete tra i favoriti». Dissero: «O Mosè, getti tu o tocca a noi gettare?» «Gettate pure», rispose. Dopo che ebbero gettato, stregarono gli occhi della gente, la spaventarono e realizzarono un grande incantesimo. «Noi ispirammo a Mosè: getta la tua verga». E quella inghiottì tutto quello che avevano fabbricato. Così si affermò la verità e vanificò quello che avevano fatto. Furono sconfitti e sembravano umiliati. Allora i maghi si prosternarono e dissero: «Crediamo nel Signore dei mondi, il Signore di Mosè e di Aronne. Vorreste credere prima che ve ne dia il permesso?» disse Faraone. «Si tratta certo di una congiura che avete ordito nella città per scacciarne gli abitanti. Ebbene, presto saprete, vi farò tagliare mani e piedi alternati, quindi vi farò crocifiggere tutti». Dissero: «In verità siamo pronti a tornare al nostro Signore. Ti vendichi su di noi solo perché abbiamo creduto ai segni del nostro Signore quando essi ci sono giunti. O Signore, concedici la sopportazione e facci morire a te sottomessi». I notabili del popolo di Faraone dissero: «Lascerai che Mosè e il suo popolo spargano corruzione sulla terra, abbandonando te e i tuoi dei?» Disse: «Poiché abbiamo il dominio su di loro, uccideremo immediatamente i loro figli maschi e risparmieremo le loro femmine». Disse Mosè al suo popolo: «Chiedete aiuto ad Allah e sopportate con pazienza. La terra è di Allah ed egli ne fa erede colui che sceglie tra i suoi servi. L'esito felice sarà per coloro che lo temono». Dissero: «Siamo stati perseguitati prima che tu venissi e dopo che venisti a noi». Rispose: «Può darsi che presto il vostro Signore distrugga il nemico e vi costituisca vicari sul paese per poi guardare quello che farete». Colpimmo la gente di Faraone con anni di miseria e scarsità di frutti, affinché riflettessero. Quando veniva loro un bene, dicevano: «Questo ci spetta», mentre se li colpiva un male, vedevano in Mosè e in quelli che erano con lui uccelli di malaugurio. Non dipendeva da Allah la loro sorte? Ma la maggior parte di loro non sapeva. Dissero: «Qualunque segno addurrai per stregarci, noi non crederemo in te». Mandammo contro di loro l'inondazione, le cavallette, le pulci, le rane e il sangue, segni ben chiari, ma furono orgogliosi e rimasero un popolo di perversi. Quando il castigo li toccava, dicevano: «O Mosè, invoca per noi il tuo Signore in forza del patto che ha fatto con te. Se allontanerai il castigo da noi, crederemo certamente in te e lasceremo partire con te i figli di Israele». Allontanammo da loro il tormento, ma quando giunse il termine che dovevano rispettare, ecco che mancarono al loro impegno. Allora ci vendicammo di loro, li inghiottimmo nel mare perché tacciavano di menzogne i nostri segni ed erano indifferenti ad essi. E abbiamo fatto del popolo che era oppresso l'erede degli orienti e degli occidenti della terra che abbiamo benedetta. Così la bella promessa del tuo Signore si realizzò sui figli di Israele, compenso della loro pazienza. E distruggemmo ciò che Faraone e il suo popolo avevano realizzato ed eretto. Facemmo attraversare il mare ai figli di Israele. Incontrarono un popolo che cercava rifugio presso i propri idoli. Dissero: O Mosè, dacci un Dio simile ai loro dei. Disse: In verità siete un popolo di ignoranti. Sì, il culto a cui si dedicano sarà distrutto e sarà reso vano il loro operare. Disse: Dovrei cercare per voi un altro Dio all'infuori di Allah, colui che vi ha preferito sulle altre creature? E quando vi salvammo dalla famiglia di Faraone che vi infliggeva il peggiore dei tormenti, uccideva i vostri figli e risparmiava le vostre femmine, era questa una dura prova da parte del vostro Signore? E fissammo per Mosè un termine di 30 notti, che completammo con altre 10, affinché fosse raggiunto il termine di 40 notti stabilito dal suo Signore. E Mosè disse a suo fratello Aronne: Sostituiscimi alla guida del mio popolo, agisci bene e non seguire il sentiero dei corruttori. E quando Mosè venne al nostro luogo di convegno e suo Signore gli ebbe parlato, disse: O Signor mio, mostrati a me affinché io ti guardi. Rispose: No, tu non mi vedrai, ma guarda il monte. Se rimane al suo posto, tu mi vedrai. Non appena il suo Signore si manifestò sul monte, esso divenne polvere e Mosè cadde folgorato. Quando ritornò in sé, disse: Gloria a te, io mi pento e sono il primo dei credenti. Disse Allah: O Mosè, ti ho eletto al di sopra degli uomini per affidarti i miei messaggi e le mie parole. Prendi ciò che ti do e sii riconoscente. Scrivemmo per lui sulle tavole un'esortazione su tutte le cose e la spiegazione precisa di ogni cosa. Prendile con fermezza e comanda al tuo popolo di adeguarvisi al meglio. Presto vi mostrerò la dimora degli empi. Presto allontanerò dai segni miei coloro che sono orgogliosi sulla terra. Quando anche vedessero ogni segno non crederanno. Se vedessero la retta via non la seguirebbero. Se vedessero il sentiero della perdizione, lo sceglierebbero come loro via. Ciò in quanto tacciano di menzogne i nostri segni e sono non curanti di essi. Quanto a coloro che negano i nostri segni e l'incontro dell'altra vita, le loro opere sono vanificate. Saranno compensati per altro che quello che avranno fatto? E il popolo di Mosè, in sua assenza, si scelse per divinità un vitello fatto con i loro gioielli, un corpo mugghiante. Non si accorsero che non parlava loro e che non li guidava su nessuna via? Lo adottarono come divinità e furono ingiusti. Quando li si convinse di ciò e si accorsero che si erano traviati, dissero: Se il nostro Signore non ci usa misericordia e non ci perdona, saremo tra coloro che si sono perduti. Quando Mosè, adirato e contrito, ritornò presso il suo popolo, disse: Che infamità avete commesso in mia assenza? Volevate affrettare il decreto del vostro Signore? Scagliò in terra le tavole e afferrò per la testa suo fratello e lo trasse a sé. O figlio di mia madre, disse quello, il popolo ha preso il sopravvento su di me e c'è mancato poco che mi uccidessero. Non permettere che i nemici si rallegrino della mia sorte e non annoverarmi tra gli ingiusti. E Mosè: O Signore mio, perdona a me e a mio fratello, e facci entrare nella tua misericordia, poiché tu sei il più misericordioso dei misericordiosi. Coloro che si scelsero il vitello come divinità saranno ben presto sopraffatti dalla collera del loro Signore e dalla vergogna nella vita terrena. In tal modo ricompensiamo i mentitori. Quanto a coloro che hanno fatto il male e poi si sono pentiti e hanno creduto, ebbene, il tuo Signore è perdonatore, misericordioso. Quando la collera di Mosè si acquietò, raccolse le tavole. In esse era scritta la guida e la misericordia per coloro che temono il loro Signore. Mosè scelse 70 uomini del suo popolo per il nostro luogo di convegno. Dopo che li colse il cataclisma, disse: O Signore, se tu avessi voluto, già li avresti distrutti in precedenza, e me con loro. Ti distruggerai per ciò che hanno commesso gli stolti della nostra gente? Questa non è se non una prova da parte tua, con la quale svii chi vuoi e guidi chi vuoi. Tu sei il nostro patrono, perdonaci e usaci misericordia. Tu sei il migliore dei perdonatori. Annoveraci un bene in questa vita terrena e un bene nell'altra vita. Ecco che, pentiti, ritorniamo a te. E Allah disse: Farò sì che il mio castigo colpisca chi voglio, ma la mia misericordia abbraccia ogni cosa. La riserverò a coloro che mi temono e pagano la decima, a coloro che credono nei nostri segni. A coloro che seguono il messaggero, il profeta e il letterato che trovano chiaramente menzionato nella Torah e nell'Ingil, colui che ordina le buone consuetudini e proibisce ciò che è riprovevole, che dichiara lecite le cose buone e vieta quelle cattive, che li libera del loro fardello e dei legami che li opprimono. Coloro che crederanno in Lui lo onoreranno, lo assisteranno e seguiranno la luce che è scesa con Lui. In vero, prospereranno. Di: Uomini, io sono un messaggero di Allah, a voi tutti inviato da colui al quale appartiene la sovranità dei cieli e della terra. Non c'è altro Dio lì fuori di Lui. Dà la vita e dà la morte. Credete in Allah e nel suo messaggero, il profeta e il letterato che crede in Allah e nelle sue parole. Seguitelo affinché possiate essere sulla retta via. E tra il popolo di Mosè c'è gente che si dirige con la verità e in base ad essa agisce con giustizia. Li dividemmo in 12 tribù o nazioni. Quando il suo popolo gli chiese da bere, ispirammo a Mosè: Colpisci la roccia con la tua verga. Sgorgarono da essa 12 sorgenti e ogni tribù conobbe da dove avrebbe dovuto bere. Prestammo loro l'ombra di una nuvola e facemmo scendere la manna e le quaglie. Mangiate le cose buone di cui vi abbiamo provvisto. Non è a noi che fecero torto a loro stessi. E quando fu detto loro: Abitate questa città e mangiate a vostro piacere, ma dite perdono ed entrate dalla porta prosternandovi. Perdoneremo i vostri peccati e a coloro che fanno il bene daremo ancora di più. Quelli di loro che erano ingiusti sostituirono un'altra parola a quella che era stata detta. Allora inviammo contro di loro un castigo dal cielo per il torto che avevano commesso. Chiedi loro a proposito della città sul mare in cui veniva trasgredito il sabato. Chiedi dei pesci che salivano alla superficie nel giorno del sabato e che invece non affioravano negli altri giorni. Così li mettemmo alla prova, perché dimostrassero la loro impietà. E quando alcuni di loro dissero: Perché ammonite un popolo che Allah distruggerà o punirà con un duro castigo? Risposero: Per avere una scusa di fronte al vostro Signore e affinché lo temano. Quando poi dimenticarono quello che era stato loro ricordato, salvammo coloro che proibivano il male e colpimmo con severo castigo coloro che erano stati ingiusti e che perversamente agivano. Quando poi per orgoglio si ribellarono a ciò che era stato loro vietato, dicemmo loro: Siate scimmie reiette. E il tuo Signore annunciò che avrebbe inviato contro di loro qualcuno che li avrebbe duramente castigati fino al giorno della resurrezione. In verità il tuo Signore è sollecito nel castigo, ma è anche perdonatore, misericordioso. Li dividemmo sulla terra in comunità diverse. Tra loro ci sono genti del bene e altre che non lo sono. Li mettemmo alla prova con prosperità e avversità, affinché ritornassero sulla retta via. Dopo di loro vennero altre generazioni che ereditarono la scrittura. Sfruttarono i beni del mondo terreno dicendo: Presto saremo perdonati. Se fossero giunti altri beni terreni, ugualmente se ne sarebbero appropriati. Non avevano accettato il patto della scrittura, secondo cui non avrebbero detto su Allah altro che la verità? Proprio loro che avevano studiato ciò che essa contiene? La dimora ultima è la migliore per i timorati, ancora non lo capite? Quanto a coloro che si attengono saldamente al libro ed eseguono l'orazione, certamente non trascuriamo la ricompensa a quelli che si emendano. E quando elevammo il monte sopra di loro come fosse un baldacchino e temevano che sarebbe rovinato loro addosso, dicemmo: afferrate con forza ciò che vi abbiamo dato e ricordatevi di quel che contiene. Forse sarete timorati. E quando il Signore trasse dai lombi dei figli di Adamo tutti i loro discendenti e li fece testimoniare a proposito di loro stessi, disse: non sono il vostro Signore? Risposero: sì, lo attestiamo. Lo facemmo perché nel giorno della resurrezione non diciate: veramente eravamo incoscienti. O diciate: i nostri antenati erano associatori e noi siamo i loro discendenti. Vorresti annientarci per quello che facevano questi inventori di nullità? Così spieghiamo i nostri segni. Forse ritorneranno a noi. Racconta loro la storia di colui cui avevamo dato nostri segni e che li trascurò. Satana lo seguì e fu uno dei traviati. Se avessimo voluto, lo avremmo elevato grazie a questi segni, ma si aggrappò alla terra e seguì le sue passioni. Fu come il cane che ansima se lo attacchi e ansima se lo lasci stare. Ecco a chi è simile il popolo che taccia di menzogne i nostri segni. Racconta loro le storie affinché riflettano. Che cattivo esempio quello del popolo che taccia di menzogne i nostri segni e fa torto a se stesso. Colui che è guidato da Allah è ben guidato. Chi da lui è traviato si perde. In verità creammo molti dei demoni e molti degli uomini per l'inferno. Hanno cuori che non comprendono, occhi che non vedono e orecchi che non sentono. Sono come bestiame, anzi ancor peggio. Questi sono gli incuranti. Ad Allah appartengono i nomi più belli. Invocatelo con quelli e allontanatevi da coloro che profanano i nomi suoi. Presto saranno compensati per quello che hanno fatto. Tra le nostre creature c'è una comunità che guida secondo verità e con essa esercita la giustizia. Condurremo alla rovina coloro che tacciano di menzogne i nostri segni e non sapranno d'onde viene. Concederò loro una dilazione, che il mio piano è certo. Non hanno riflettuto? Non c'è un demone nel loro compagno, egli non è che un nunzio chiarissimo. Non hanno considerato il regno dei cieli e della terra e tutto ciò che Allah ha creato e che forse è vicino il termine loro? In quale altro messaggio crederanno dopo di ciò? Chi è traviato da Allah non avrà la guida. Egli lascia che procedano alla cieca nella loro ribellione. Ti chiederanno dell'ora. Quando giungerà? Di: la conoscenza di questo appartiene al mio Signore. A suo tempo non la paleserà altri che Lui. Sarà gravosa nei cieli e sulla terra, vi coglierà all'improvviso. Ti interrogano come se tu ne fossi avvertito. Di: la scienza di ciò appartiene ad Allah, ma la maggior parte degli uomini non lo sa. Di: non dispongo da parte mia né di ciò che mi giova né di ciò che mi nuoce, eccetto ciò che Allah vuole. Se conoscessi l'invisibile, possederei beni in abbondanza e nessun male mi toccherebbe. Non sono altro che un nunzio e un ammonitore per le genti che credono. Egli è colui che vi ha creati da un solo individuo e che da esso ha tratto la sua sposa affinché riposasse presso di lei. Dopo che si unì a lei, ella fu gravida di un peso leggero con il quale camminava senza pena. Quando poi si appesantì, entrambi invocarono il loro Signore Allah: se ci darai un figlio probo, ti saremo certamente riconoscenti. Ma quando diede loro un figlio probo, essi attribuirono ad Allah associati in ciò che gli aveva loro donato. Ma Allah è ben superiore a quello che gli viene associato. Gli associano esseri che non creano nulla e che anzi sono essi stessi creati, e non possono essere loro d'aiuto e neppure esserlo a loro stessi. Se li invitate alla retta via, non vi seguiranno, sia che li invitiate o che tacciate, per voi lo stesso. In verità, coloro che invocate all'infuori di Allah sono suoi servi come voi. Invocateli dunque e che vi rispondano se siete sinceri. Hanno piedi per camminare, hanno mani per afferrare, hanno occhi per vedere, hanno orecchie per sentire? Di, chiamate questi associati, tramate pure contro di me e non datemi tregua. Che il mio patrono è Allah, colui che ha fatto scendere il libro. Egli è il protettore dei devoti. E coloro che invocate all'infuori di lui non sono in grado di aiutarvi e neppure di aiutare loro stessi. Se li chiami alla retta via, non ti ascolteranno. Li vedi, rivolgono lo sguardo verso di te, ma non vedono. Prendi quello che ti concedono di buon grado, ordina il bene e allontanati dagli ignoranti. E se ti coglie una tentazione di Satana, rifugiati in Allah. Egli è colui che tutto ascolta e conosce. In verità, coloro che temono Allah, quando li coglie una tentazione lo ricordano, ed eccoli di nuovo lucidi. Ma i loro fratelli li sospingono ancor più nell'aberrazione, senza che poi mai più smettano. E quando non rechi loro qualche versetto, dicono: non l'hai ancora scelto? Di: in verità non seguo altro che quello che mi ha rivelato il mio Signore. Ecco venirvi dal vostro Signore un invito alla visione chiara, una direzione, una misericordia per coloro che credono. Quando viene letto il Corano, prestate attenzione e state zitti, che vi sia fatta misericordia. Ricordati del tuo Signore nell'animo tuo, con umiltà e reverenziale timore, a bassa voce, al mattino e alla sera, e non essere tra i noncuranti. Certamente coloro che sono presso il tuo Signore non disdegnano di adorarlo. Lo lodano e si prosternano davanti a Lui.